Siamo alla soluzione del quiz, ve lo ricordate? Avete un uovo su un tavolo, è fresco oppure è sodo? Come fate a saperlo senza rompere l'uovo? La risposta giusta è la prima, lo dovete mettere in rotazione. Infatti dentro l'uovo fresco c'è una sostanza che è fluida con al centro anche un tuorlo in sospensione. Se fermate l'uovo esternamente non riuscite allo stesso tempo a fermare questa sostanza fluida interna che continuerà a girare. Quando voi togliete il dito dal guscio, il fluido interno in rotazione se lo porterà un po' con sé, insomma tutto l'uovo, facendogli fare un altro giro. Se l'uovo invece è sodo, tutto il materiale è compatto e la rotazione si ferma. La luce quindi non passa attraverso il guscio, la risposta era sbagliata, e se vi fosse una differenza di peso fra quello cotto e quello crudo, vorrebbe dire che l'uovo, il cui guscio è completamente non poroso, violerebbe tutte le regole fondamentali della fisica. Un aumento di peso significa un aumento di materia, da dove arriverebbe, insomma. Allora, la prima è la risposta giusta.